fare tutta la... Resto Radio Convento, per raccontarsi, per raccontare. E ci siamo, Ristorato e Convento in diretta sabato sera in compagnia di amici sono da Vicenza. Marano Vicentino, provincia di Vicenza, super paese. Siete qua a festeggiare cosa? Menin che si sposa, Menin lo sposo. E dov'è? Qua? Menin? Sì, qua. Sì, vai, quello che era attaccato al vetro, ecco, ho capito qual è. E voi come vi chiamate? Presentatevi. Piacere, Giaguaro. Ah, il Giaguaro. Cristian. Nicola. Luca. Ma perché il Giaguaro? Perché ha la potenza del Giaguaro dentro. Dentro? Dentro. Tira anche fuori. Into. Cosa fa? Bacia se stesso? Ah no, c'è una ragazza. Ah, la Olga. Salutate Olga. Le baciamo tutte. Tutti pazzi per Olga, mi piace questa cosa. Voi siete single, fidanzati? Fidanzato. Tutto stasera proprio una cosa. Separato, single, etero, homo. Domani forse lo siete per davvero. per adesso godiamoci il momento. Ecco. Ascolta, se gli dai a quello all'altro orecchio, ecco, se no le rompiamo. Perfetto, ecco. Ecco, ti piace il rotto della cuffia? Ok, ma ragazzi, voglio capire un attimo, il Giaguaro è il nome d'arte che avevi fino a bambino? Beh, non fino da bambino, ma da 20 anni a sta parte. Ok, da 20 anni a sta parte, quindi sono 20? Quanti anni? 40? 43, ragazzi. 43, quindi 20 anni che fa il Giaguaro questo, perfetto. Ma voi siete amici proprio da una vita, gli amici storici? Più o meno sì. Ah, perché siete nel... Tutti del paese, sì, grazie. Perché abitate in un paesino, tipo, e vi conoscete tutti, no? Sì. Ah, tiene, famoso tiene. Fa tiene schios. Ok, stasera com'è andata a convento? Vi siete divertiti? Divertitesi, dai, un po' di smollaccione, dai, comunque tutto bene, dai. Cos'è una smollacciona? Spiegate cos'è agli ascoltatori, cos'è una smollacciona. un po' di smollaccione, dai, comunque pensavo meglio, dai. Speravi più smollacciona? No, più smollacciona. Meno smollacciona. Meno smollacciona. Però nessuno ha capito cos'è la smollacciona, cioè che cos'è un esemplare di femmina, è un formaggio, cos'è? È una ragazza un po' smollacciona. Al microfono, se no non si capisce. È una ragazza un po' smollacciona. Ok, ecco, qualcuno non può... Non si fa tanto desiderare. Ah! Che non si fa apprezzare. Ah, ho capito, c'è stato questo effetto così smollaccione. Ma voi siete seri, quindi niente. Noi non abbiamo smollacciato niente. Festa con testa. Incorruttibili. Festa con testa qua. Ma testa in festa. Cos'è che è? Ripetila. Festa con testa. Festa con testa? Ma testa con testa. Ma testa in festa. Ma si dice così al vostro paese? Mi piace questa. Si dice così, sì. Bellissimo. Abbiamo detto qualcosa che non va bene? No, per ora siete bravissimi, siete calmati. Cioè, quando siete entrati ero terrorizzata. Testa con testa, ma testa in festa. Ecco, mi piace. Oh, ecco, abbiamo zittito il ragazzo con la camicia azzurra che. vuoi aggiungere qualcosa? No, dai, aggiungi che così, aggiungi un po' sta tavola che c'è un amico in più. Ecco, che sei l'amico, come ti chiami tu? Luca. Ah, Luca. Ok, vuoi aggiungere qualcosa? Ah, tranquillo. Tranquillo, c'è questa cosa della tranquillità. Avete cantato, ragazzi, nella sala YouTube? Certamente. Quindi abbiamo cantato, anche... ballato e fatto un po' di più anche. Perfetto. E le foto quali avete fatte? In area foto. Le foto, vedete, c'è tutto, una cosa. Facciamo poi. Bello. Mi piace. Hai visto Olga è qua che... Grandissima Olga. Olga, da dove la collochiamo? Nelle smollaccione? Nel fa mezzo. Lo scopriremo. Fantastico. Volete salutare qualcuno a Tiene? Qualcuno a vostro paese? Assolutamente no. Ci No, facciamo. Io volevo salutare il sindaco. Il sindaco. Ah. Non so come si chiama, ma è il sindaco. Perfetto. Marco, sì. Perfetto, mi piace che non sa come si chiama, però lo salutiamo. Va bene, oh, Grazie, sindaco dei No, ma facciamo un augurio anche festeggiato che è Marco Menin, grazie. Il grande Marco Menin, detto sì. Manny che si sposa. Detto Manny che si sposa, sì, grazie. Il Manny che si sposa. C'è riuscito anche lui alla fine, ragazzi. Purtroppo, purtroppo. No, ah. Perché ci manca ancora un mese e mezzo. Ci manca ancora un mese e mezzo. Manca un mese e mezzo, probabilmente cambierà idea. Finora è convinto. L'importante è che siamo qua. Io quando si è appiccicato al vetro l'ho visto convinto, prima era. Stava facendo tipo il pesce rosso. Probabilmente, sai, sì. Quando ti svegli la domenica mattina che non stai tanto bene, sì? Ci ripensi. Ah. Domani. Ah, quindi è una notte. Cioè, dopo ho visto che gli manca un dente. Ho visto che gli manca un dente. Sì, c'è anche la tigre. C'è anche la tigre. Qua, Beh, c'è anche il giaguaro qua. Cioè, abbiamo tutto, no? Il tatuaggio nell'occhio. Il tatuaggio. Perfetto. Ma come ti chiami tu? Io Sandrino. Grande Sandrino. Grazie. Grande Sandrino. Facciamo un applauso, Sandrino. Un applauso, Sandrino. Vai, vai, vai, vai. Poi vi do la mancia che abbiamo stabilito prima della scena. Quindi, ragazzi, abbiamo fatto. Salutiamo o non salutiamo nessuno, abbiamo detto, giusto? Niente, no, perché nessuno, odio dai. Tutti, odio tutti. Esatto, perfetto. No, tranne il sindaco che hai voluto salutare. Ok, salutiamoci tra di noi. Allora, vai col saluto, Luca. Nicola Cristian il giaguaro. Facciamo tutti i saluti al giaguaro. Vai, wow. Giaguaro. Wow. Wow. Fantastici, noi fantastici. Siamo 5, grazie, siamo insieme.